get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, siamo Laura e Lucilla e questa è la 46esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto del coordinamento lesbiche romane. Questa volta volevamo partire direttamente con un brano di Janis Joplin, Cosmic Blues Band, Try Just a Little Bit Harder. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care how long it's gonna take. If it's a dream, I don't want. No, I don't really want it. If it's a dream, I don't want nobody to blame me. Yeah, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I can give, give, give, give him every bit of my soul. Yeah, I'm gonna try. Questa sera vorremmo leggere un articolo che si intitola Il pensiero eterosessuale. ed sono delle valutazioni che noi facciamo su appunto il pensiero eterosessuale a partire da un articolo che nel 1978 Monique Wittig per la prima volta rese noto un suo testo che va sotto il titolo di The Straight Mind, ovvero La mente o il pensiero eterosessuale. Tradotto nel 1990 da Rosanna Fiocchetto per il bollettino del CLI. In quegli anni a Parigi, come del resto in tutto il mondo occidentale, si era sviluppato un dibattito sul linguaggio come fenomeno che dominava i sistemi teoretici e le scienze sociali. Anche i movimenti delle donne e delle lesbiche si interrogavano a questo proposito. Del resto sappiamo molto bene che ogni disciplina ha un proprio linguaggio e che alcuni termini assumono significati diversi, peculiari del contesto in cui vengono utilizzati. Si è sviluppata la cosiddetta scienza del linguaggio attraverso la linguistica, la scienza delle comunicazioni, il tecnicismo dei metalinguaggi. La Wittig, nel suo saggio, analizza in particolar modo il ruolo della psicanalisi all'interno del pensiero strutturalista lacaniano. Il mondo non è altro che un immenso registro dove i più diversi linguaggi appaiono come il linguaggio della moda, il linguaggio dell'inconscio, il linguaggio dello scambio delle donne e dove gli esseri umani sono letteralmente i segni usati per comunicare, dunque immersi in un vuoto astorico che fa perdere di vista la causa materiale della loro oppressione. Un esempio? La psiche umana è uguale per tutti perché è geneticamente programmata e l'inconscio si struttura sulle metafore come il nome del padre e lo scambio delle donne. Da qui la necessità degli specialisti, gli psicoanalisti, che sappiano leggere le metafore e interpretare la psiche. La Wittig sostiene che la persona psicanalizzata non è altro che un'oppressa, il cui bisogno di comunicazione viene sfruttato non avendo alcuna scelta se non quella di dire ciò che lo psicanalista si aspetta che dica, rispettando un contratto a senso unico, come quando durante la caccia alle streghe gli inquisitori si aspettavano che le donne sotto tortura usassero l'unico tipo di linguaggio che loro volevano ascoltare. Questa premessa, l'autrice passa ad analizzare l'oppressione e, come lei stessa dice, i discorsi che opprimono tutti noi, lesbiche, donne e omosessuali, sono quei discorsi che danno per scontato che ciò che fonda la società, ogni società, è l'eterosessualità. Aggiungendo tra parentesi che questo vocabolo è comparso per la prima volta nella lingua francese nel 1911 e quindi a quel tempo qualcuno si è preso la briga di assolutizzare un comportamento attraverso la creazione di un sostantivo. Proprio perché il termine eterosessuale è stato ideologicamente assunto come totalizzante ed assoluto, di per sé esclude qualsiasi altra possibilità, negando dunque ancora una volta la formulazione di altre categorie. Costituisce a sua volta un discorso i cui segni hanno un preciso significato. Le donne sono dominate. Essa umilia, degrada, è un crimine. È una tattica vessatoria con funzione di violento avvertimento. Ha uno stretto rapporto con la realtà sociale in termini economici e politici. Non è dunque un discorso astratto. Non lo sono discorsi astratti i concetti che ruotano intorno a parole come donna, uomo, sesso, differenza e ancora storia, cultura, reale. Perché sebbene sembri accettato che tutto sia un prodotto del discorso culturale e quindi un prodotto della cultura dominante, nelle nostre teste esiste ancora un nucleo della cosiddetta natura che resiste a qualsiasi revisione e che è ineluttabilmente l'eterosessualità. La Wittig lo chiama l'obbligatorio rapporto sociale tra uomo e donna. Così com'è, imperme a ogni sapere, diviene principio ovvio, dato a priori. Il pensiero eterosessuale sviluppa un'interpretazione totalizzante della storia, della realtà sociale, della cultura, del linguaggio e di tutti i fenomeni soggettivi. Universalizza la sua produzione di concetti in leggi generali che pretendono di essere vere per tutte le epoche, per tutte le società e per tutti gli individui. È facile quindi cadere nell'equivoco per cui ogni essere vivente è portato a pensare che l'eterosessualità ordini tutte le relazioni umane. Del resto, questa ideologia si serve dei miti e delle metafore per poetizzare il carattere obbligatorio del «tu sarai eterosessuale o non sarai». Basti ricordare che nel nostro Parlamento c'è in bella mostra la rappresentazione del ratto delle Sabine. La violenza e lo stupro delle donne sono un mito su cui si fonda la città eterna e la Repubblica Italiana. Anche per le lesbiche, talvolta, il modello eterosessuale, purtroppo, costituisce il punto di partenza e di arrivo del loro agire e del loro pensarsi. Le tesi congressuali di Arcilesbica liquidano in due battute il dissenso interno circa le unioni civili. Quel dissenso che al convegno di Roma del 1997 venne espresso in modo chiaro da alcune e che trovò molte separatiste concordi. Sostenere il diritto della singola, anziché della coppia, significa esprimere un pensiero originale e autonomo rispetto al diktat colonizzante che impone il nucleo familiare come luogo dei giusti interessi collettivi. Confronta per questo la bozza delle tesi congressuali di Arcilesbica a pagina 5. Per spiegare l'equivoco basta tornare all'esempio della Wittig, il concetto di differenza. Costruire una differenza, secondo quanto dice testualmente nell'articolo, nel suo testo, scusate, costruire una differenza e controllarla è un atto di potere, in quanto è essenzialmente un atto normativo. Ognuno cerca di mostrare l'altro come differente, ma non tutti ci riescono. Bisogna essere dominanti per riuscirci. E infatti il concetto di differenza tra i sessi pone le donne come differenti altre. In alcuni vocabolari un po' datati ancora si trova la definizione di donna uguale femmina dell'uomo. Gli uomini non sono differenti, dunque anche lesbica è differente altro. Un altro esempio circa la norma «tu sarai eterosessuale o non sarai» la troviamo su «Vivere sani e belli» numero 42 del 22 ottobre 1999, nella rubrica «Guida ai prodotti» a cura di Nicoletta Ripani e con la consulenza della ginecologa Paola Maggioni a proposito dell'uso dei detergenti intimi e dei rapporti sessuali. Si legge testualmente: «Il liquido seminale tende a rendere meno acido il pH vaginale. È consigliabile quindi lavarsi accuratamente dopo ogni rapporto per ripristinare il giusto grado di acidità delle mucose. Inutile qualsiasi commento». Adrienne Rich, nel suo saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, ricorda che l'obbligo alla copula non è altro che un modo di controllare e di avere libero accesso al corpo delle donne da parte degli uomini. Un mezzo proficuo per dominare, avendo l'accortezza di far passare sotto silenzio qualsiasi altra possibilità. Ma il pensiero eterosessuale dice che non c'è dominio, bensì differenza. È importante far emergere l'originalità delle nostre vite, delle nostre esperienze, delle nostre comunità, sistemi di vita sociale alternativi. Bisogna rompere il contratto eterosessuale. È necessario risignificare la parola lesbica, perché come dice la Wittig, le lesbiche non sono donne. Non è una donna chi non è in relazione di dipendenza personale con un uomo. Thank you. no compromise. Would you like to dive with me? Do you want to pass with it? I will be that rush of our devotion. Would you like to follow me? Hey, hey, and I come and follow you so far. E dopo il riferimento a un nostro mito come è la Wittig e come è la Rich che era menzionata, non poteva mancare un altro mito per noi lesbiche separatiste, che sono le Kick la Luna con il loro bellissimo brano No Compromise. Volevo proporvi l'appello a favore dei diritti umani delle donne afghane, che sta viaggiando nel mondo via email, promosso da molte organizzazioni non governative e associazioni umanitarie, oltre che da un gruppo di parlamentari europei. L'appello mira a sensibilizzare il commissario per i diritti umani dell'ONU, Mary Robinson, e Angela King, consulente ONU sui problemi del genere femminile, affinché intervengano a ristabilire il rispetto dei diritti umani fondamentali in Afghanistan. Qualcosa si è mosso quando Russia e Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di sicurezza dell'ONU una bozza di risoluzione che prevede sanzioni contro il regime talebano. Il governo dell'Afghanistan è impegnato in una guerra contro le donne. Da quando i talebani hanno assunto il potere nel 1996, le donne hanno dovuto indossare il burqa, la lunga veste che copre completamente il corpo, lasciando solo una rete per respirare davanti al naso. E sono state picchiate e prese a sassate in pubblico per non avere l'abito corretto. Una donna addirittura è stata colpita a morte da una folla di fondamentalisti per avere accidentalmente esposto il braccio mentre stava guidando. Alle donne non è permesso lavorare né presentarsi in pubblico senza un parente maschio. Le professioniste, insegnanti, medici, avvocati, scrittrici, sono state costrette a lasciare il lavoro e a vivere segregate in casa, cosicché la depressione ha raggiunto livelli di emergenza. Le case dove vi è una donna devono avere le finestre dipinte, cosicché lei non possa mai essere vista dall'esterno. Le donne vivono nel terrore per la loro vita, per il minimo sbaglio, poiché non possono lavorare. Quelle che non hanno parenti maschi o mariti fanno la fame o chiedono l'elemosina. Non vi sono quasi presidi medici disponibili per le donne. In uno dei rari ospedali per donne, un giornalista ha trovato donne quasi esanimi che giacevano immobili sui letti, avvolte nel loro burka, senza voglia di parlare, di mangiare o di fare qualsiasi cosa. Altre sono impazzite e stanno rannicchiate negli angoli, a dondolarsi o a piangere. È chiaro che davanti a questa situazione, parlare di violazione dei diritti umani è assolutamente inadeguato a far capire cosa sta succedendo in Afghanistan. C'è chi ha affermato che gli occidentali non dovrebbero giudicare gli afghani per un simile trattamento perché è un fatto culturale, ma non è così. Le donne hanno goduto una relativa libertà di lavorare, di vestire come volevano, di apparire in pubblico da sole fino al 1996. Non è quindi la loro tradizione o cultura, è l'esatto contrario e costituisce un eccesso anche per quelle culture dove il fondamentalismo è la regola. Se noi possiamo minacciare la forza militare in Kosovo in nome dei diritti umani, allora la NATO e l'Occidente possono certamente esprimere sdegno di fronte all'oppressione, all'assassinio e all'ingiustizia dei talibani contro le donne. Per comprendere appieno e per coinvolgere tutti, e per far capire bene come vivono oggi le donne afghane e soprattutto come è cambiata la loro vita da quando sono al potere i talibani, Medecins du Monde ha organizzato una mostra fotografica itinerante che documenta attraverso 28 immagini la vita delle donne afghane. Per portare l'osservatore occidentale più vicino alla condizione delle afghane, l'organizzazione francese ha predisposto la mostra su un tessuto che ricorda molto il burka, il velo che copre il loro corpo e che come unico spiraglio di luce ha una griglia davanti agli occhi. La maggior parte di queste foto è coperta da questa griglia, che mostra in che modo le donne afghane sono costrette a vedere il mondo. Dal mese di marzo del 98 la mostra è già stata allestita in diverse città italiane. Ziepa Joris-Jamli, dottore in antropologia culturale, si occupa di medicina indigena, relazioni di genere, etnicità, religione e altri aspetti della cultura afghana. Ha fondato e dirige Women's Alliance for Peace and Human Rights in Afghanistan, un'organizzazione non governativa che ha sede a Washington ed è collegata alla rete delle donne afghane, cui aderiscono 17 organizzazioni impegnate nei campi profughi del Pakistan e in varie zone dell'Afghanistan. Questa organizzazione si dedica alla difesa delle donne afghane e anche alla promozione della pace e dei diritti umani. Questa organizzazione, in collaborazione con la rete delle donne e l'AIDOS, ha istituito un fondo per le donne nei campi profughi del Pakistan. Oltre a promuovere attività di rafforzamento istituzionale delle organizzazioni, il fondo servirà anche a finanziare un progetto per la salute primaria e riproduttiva nei campi profughi in Pakistan. Inoltre, questa organizzazione, presieduta da Zieba, fornisce un servizio di rassegna stampa attingendo da svariate fonti come il New Eastern Economic Review, la BBC, la CNN e le agenzie stampa Reuters, Agence France-Presse, eccetera. Tutte notizie che non escono dappertutto. I contributi per il Fondo delle Donne Afghane possono essere inviati anche a un conto corrente postale intestato all'AIDOS. La dichiarazione a cui si chiede di mandare è questa. Nel firmare questa petizione, noi siamo d'accordo che il trattamento attuale contro le donne in Afghanistan è completamente inaccettabile e merita appoggio e azione da parte delle Nazioni Unite e che la situazione corrente in Afghanistan non sarà ulteriormente tollerata. Quello dei diritti delle donne non è un problema piccolo in nessun luogo ed è inaccettabile che nel 1999 le donne siano trattate come sottoprodotto umano e alla stregua di una proprietà. Uguaglianza e decoro umano sono un diritto, non una libertà, che si viva in Afghanistan o in qualunque altro luogo. Le voci di milioni di donne afghane sono costrette al silenzio sotto i pesanti e neri veli di schiavitù. Nessuna donna dovrà accettare la schiavitù nel mondo. Pertanto uniamoci alla protesta contro l'apartheid sessuale dei talibani ed altri fondamentalismi in Afghanistan. Vi invito a richiedere copia di questa dichiarazione per inviarla via email a Mary Robinson e l'indirizzo è webadmin.hchr@un.org e Angela King, indirizzo dav@undp.org. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey girl, I think I'm a housewife. Hey girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage. Il brano che avete ascoltato è Anchorage di Michelle Shocked, tratto da Short Sharp Shocked. La musica di sottofondo che ascoltate in questa trasmissione è di Rachel Zed dal CD Room of One Zone. Nello spazio di musica lesbica indipendente, questa volta vi volevamo proporre un CD arrivato fresco fresco dalla Germania, propostoci da Tikala. Si chiama Living with Lesbian, è di Alex Dobkin. Questa musica è dedicata a tutte le donne voodoo che hanno inventato il jazz e anche a tutte le altre lesbiche, con la speranza che piaccia loro. Il brano si intitola Living with Lesbian. The fields were cut the other day. We hired a boy up the hill. A neighbor has lowered the old barn down. We admire his equipment, his skill. My daughter, she's five, he lets her drive. His bulldozer, he shows her how. We do all that we can, but we can't always manage to live just with the women now. Liza is my sweetheart. Adrian is my child. We've been working out our relationship. Siete all'ascolto della 46esima trasmissione del ciclo È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane, nell'ambito del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa e precisamente sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci qui in radio allo 06 49 17 50 o presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B allo 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica. Potete trovarci ogni giovedì dalle 20 alle 23 o scriverci una email all'indirizzo clrbp@hotmail.com. Gli appuntamenti. Martedì 7 dicembre alle ore 20:30 si terrà presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B il terzo incontro tra diverse realtà di donne lesbiche. L'occasione di confronto è stata fornita dal Pride 2000 e dalla conferenza dell'ILGA. La voglia espressa nei due precedenti incontri è quella di conoscersi e di verificare se ci sono desideri comuni per costruire un percorso condivisibile. Gli incontri sono aperti a tutte le realtà lesbiche che abbiano questa curiosità e questa disponibilità, quindi donne separatiste e non separatiste, donne in gruppo o singole. Per ulteriori informazioni, Centro Femminista Separatista, martedì e giovedì sera, il numero di telefono è 06 68 64 201. Capodanno in masseria, le Desiderande di Bari organizzano una vacanza dal 30 dicembre al 2 gennaio 2000 ad Ostuni, con grande cenone e festa di Capodanno. La masseria può ospitare 100 donne in stanze da 5-6 letti, con bagno e riscaldamento autonomo. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0368 37 77 784 delle Desiderande, oppure scrivere a desiderande@hotmail.com. Se volete ulteriori informazioni potete riferirvi anche a noi del Coordinamento Lesbiche Romane e telefonarci presso il Centro Femminista Separatista al numero che già vi abbiamo dato. È ripresa la collaborazione con Elisabetta di Radio Sherwood di Padova, che trasmette le nostre trasmissioni il secondo mercoledì di ogni mese alle 16:30. Vi ricordiamo che Radio Sherwood copre il Triveneto e parte dell'Emilia-Romagna. E invece a Roma, ogni giovedì, potete andare in Trastevere, nel locale In Vino Veritas, in via Garibaldi, perché questa serata è tutta al femminile. walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. Honey, the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears than dead, man. So come on, come on, come on, come on. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.